Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti per dare il via al Soundcheck Airplay Music Award 2015-2016 per ringraziare tutti i grandi artisti che hanno realizzato album e canzoni che in qualche modo hanno regalato il sound a questa edizione del nostro Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera a Francesco Tromba. Ciao a tutti. E c'è un'altra persona che io voglio salutare e soprattutto voglio ringraziare perché è stata una compagna di marachelle musicali eccezionale e che purtroppo non è con noi nel nostro studio ormai da un po' e non ho ancora ben capito i motivi, ma glielo chiediamo subito. Vado a ringraziare e a salutare per la partecipazione collegata non si sa da dove ma via Skype a Silvia Barba. Eccola qui, Silvia. Buonasera, ciao Gegè, buonasera a tutti. Ciao Tromba. Ecco. Ciao. Senti Silvia, ma dove ti trovi? Allora, Gegè, io non posso dirti tutto, però sono da settimane in giro per il mondo a consegnare i premi. Io sono la tua inviata. Ma che bugiarda, che bugiarda. Noi posso dirti dove sono, però sono in giro. Ci siamo salutati ormai un paio di settimane fa e tu mi dicesti, guarda, no, perché ho un sacco di cose da fare, devo lavorare. Dove stai? Che stai facendo? E soprattutto con chi sei? Allora, non posso svelarti tutto, te lo dico poi magari nel fuori onda dove non ci ascoltano tutti i nostri amici a casa e ecco. In macchina. Soprattutto ma non ti ascoltano i tuoi. Degli amici miei da lontano e sono in giro con loro in tour, un po' road manager. Quindi sei in giro con degli amici musicisti che arrivano da? Da New York. Figurati, da New York. Quindi una band contemporary, R&B, jazz. Sì, un po' di tutto, non ci facciamo mancare niente, diciamo. E figurati se Silvia si faceva mancare qualcosa. Rimane sempre sul vago, però non ci racconta bene. Non racconta bene, soprattutto non è carino che noi stiamo qui a realizzare l'ultima puntata, poi vabbè, ci salutiamo poi con gli amici domani sera, sempre alle 19:15 su Radio 24, però non è carino che non sei qui con noi. Dai, non è carino, sono comunque con voi, con il pensiero, con lo spirito. Non fisicamente, ma mi interessava essere e partecipare a questa puntata dove diamo i premi finalmente di tutta la stagione, i nostri Music Awards. Ecco, più che poi premi... ve lo scrivo in privato. Va bene, allora più che premi noi consegniamo che cosa? Un attestato di merito e un nostro personale ringraziamento a quegli artisti, quelle band, quei musicisti, a quei compositori che, come dicevamo, hanno con la loro opera regalato il sound, il suono a questa stagione del Soundcheck. Sì, e magari li invitiamo anche a cena se vengono in Italia, se passano. Ecco, li invitiamo insieme a Silvia Barba se riuscirà a tornare dopo che non si sa che sta combinando. Però allora a questo punto Silvia approfitterei della tua presenza via Skype ancora per qualche secondo così capirai chi ha vinto perlomeno il Soundcheck di quest'anno per la categoria Best R&B. 5 erano le nomination e quindi Judith Hill, Terry Lynn Carrington, Anderson .Paak, Jill Scott con Woman e Prince con Hit and Run volume secondo. Andrei a citare subito la terza, no? È inutile che citiamo tutta la classifica, sì, no? Al terzo posto. Partiamo subito dal terzo posto, sono a pari merito Judith Hill e Jill Scott. A pari merito. Pari merito. Poi pensate, addirittura io pensavo che arrivasse primo per motivi che ben possiamo immaginare, Prince con Hit and Run, invece ad aggiudicarsi il Soundcheck Airplay Music Award stagione 2015-2016, mia cara Silvia Barba, Francesco Tromba, miei cari amici di Radio 24, è l'album Malibu con Anderson .Paak. So precious, it's yours, it's mine. Eh sì, Malibu di Anderson .Paak si aggiudica il Soundchecker Play Music Award per la categoria R&B. Io non me lo sarei proprio aspettato, pensavo che vincesse Prince per ovvi motivi, e poi personalmente avevo votato per Jill Scott con l'album Woman Album, che ho ascoltato tantissimo quest'anno. Invece Francesco? Io ho votato Anderson .Paak e quindi ho vinto. Hai vinto tu. E invece Silvia Barba, cosa avevi votato tu, Silvia? Io Judith Hill. Judith Hill, bene. Sì, però lo trovo comunque un giusto riconoscimento per Anderson .Paak, al suo lavoro, al fatto che comunque quest'anno ne ha vinti e come di premi anche lui. Eh sì. Quindi, anche se ti devo dire la verità, lo preferivo un po' con Blended Babies, che noi abbiamo passato tante volte anche al soundcheck. Allora, visto che hai ricordato Anderson .Paak con Blended Baby, io direi proprio di ascoltare questo bellissimo brano e restate in contatto con il Soundchecker Play Music Award di questa stagione. Grazie a Silvia Barba, grazie Silvia, abbiamo fatto veramente una grande stagione insieme, e comunque appena finisci la vacanza passa dal Groovemaster Studio, perché ho una copia di Fun Slow Ride da regalarti, almeno quello lo posso fare. E allora sicuramente ci vediamo presto, grazie a tutti e grazie a te per questa grande opportunità di questi mesi che mi hai regalato. Grazie Silvia, un abbraccio forte, ciao. Ciao, ciao Tromba, ciao a tutti. Soundcheck, il suono della musica. E approdiamo con la voce della bravissima e anche molto carina Shantae Khan alla categoria Best New Talent per il Soundchecker Play Music Award 2015-2016. Oggi andiamo a scoprire chi si aggiudica, come dire, una testimonianza di affetto, di stima, sì, di benemerenza. Un ringraziamento importantissimo per essere stata una delle colonne principali della musica del soundcheck. Allora, vediamo la categoria Best New Talent. Gli artisti? Gli artisti in nomination sono Claffy, poi Madison McFerrin, figlia d'arte, Donny Trumpet e The Social Experiment, e Shantae Khan, che abbiamo appena ascoltato. E poi chi c'è ancora? E poi c'è anche Tom Misch. E chi vince? E vince proprio Tom Misch, facendo i conti. Non ci posso credere. Vince lui. Tom Misch, chitarrista, cantante, a volte non è un cantante eccezionale. Credo che sia stata premiata la sua idea di produzione, un ragazzo che si è fatto conoscere lavorando soprattutto in internet, pubblicando la sua musica su SoundCloud. Ultimamente ha realizzato finalmente un album con la partecipazione di vari amici, soprattutto vocalist, anche molto carine, se le va scegliendo, collaborazione anche con Zach Abel, con Jordan Brackey. Però noi ve lo presentiamo invece con una sua composizione intitolata Memory. Il brano lo ha realizzato da solo nel suo home studio. Come lo giudichi questo brano? Beh, lui si dà da fare parecchio, comunque è assolutamente apprezzabile il fatto che vada avanti da solo nonostante la sua giovanissima età. Credo che su Tom Misch sia arrivato anche il voto della nostra Silvia Barba, perché lo ha sempre apprezzato molto. Sì, infatti l'ha votato. Ah, ce l'hai lì, sì, eh? Sì, tu scopri gli altarini lì. Sì, sì. Eccolo qui, Tom Misch, che si aggiudica Best New Talent per questa stagione del Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Questo è il soundcheck di Radio 24 con Gigi Telesforo e Francesco Tromba. Ultimo sabato per noi, domani proprio ci saluteremo con una puntata dedicata completamente all'ultimo lavoro discografico, Fun Slow Ride. Ma andiamo ora a scoprire per il Soundchecker Play Music Award con Francesco Tromba intanto quali sono state le nomination per la migliore canzone, Best Song per quest'anno. Allora, come Best Song le nomination sono King con Supernatural, che abbiamo ascoltato tantissime volte e apprezzato sì, a pieno, poi Ty Dolla $ign insieme a Babyface con Solid che ci è piaciuto tantissimo, bello anche lui, Laila Bialy insieme a The Radiation Project con Little Bird, Camilla Mezza insieme a Sasha Albasandani che abbiamo appena ascoltato con, dall'album Traces, il brano era Away. L'altra nomination è Fun Slow Ride insieme ad Alan Hampton con Next, e facendo i conti Chi hai viene? Vinto con distacco tu, Fans sì. Low Ride vince, mamma mia, con lo distacco. Diremo ad Alan Hampton, sarà felicissimo Alan Hampton, e sarà felicissima anche Greta Panettieri, che ha collaborato alla stesura del testo, è stata fondamentale, quindi bene, sono contentissimo. Ti regalo un peperoncino, dai, grazie, è un bel premio. Allora che facciamo? Chiudiamo questa prima parte proprio con Next, Alan Hampton, Fans Low Ride. Posso citare i musicisti che hanno... Assolutamente bene. Allora, in questo brano ci sono fratello Joseph Bassi al contrabbasso, Dario Panza alla batteria, il solo di piano è meraviglioso, di chi? Di Domenico Sanna. Domenico Sanna, e naturalmente Alan Hampton e Joey Dragland le voci, e poi io mi sono divertito col glockenspiel e il fischio, e c'è Giovanna Famulari, bravissima e bellissima al violoncello. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, seconda parte della penultima puntata, perché domani proprio ci saluteremo, chiuderemo la bottega, chiuderemo qua il Groove Master Studio, per poi ritrovarci probabilmente a settembre con la quarta edizione. Quante puntate abbiamo realizzato? Te lo dico subito, perché le ho tutte numerate. Questa è la numero 332, e quindi domani 333. Che numero, eh? Chiudiamo con 3 volte 3, il numero perfetto. Ah, tu dici? Staremo a vedere. Bene, ricordo che Francesco Tromba è con noi, e salutiamo ancora una volta Silvia Barba, che abbiamo sentito all'inizio dell'appuntamento, è stata importantissima per me, Silvia, tornando da New York, per la realizzazione di questa edizione. Tu ti sei fatto vedere un po' all'inizio e poi sul finale. Eh sì, io sono stato impegnato con Giovanni Minoli per fare un altro ma programma. Ma sei tornato all'ovile, mio caro Francesco, eh sì, sono contento. La musica quando chiama non si può assolutamente. Va bene, poi ti ho ingaggiato adesso per affrontare parte dell'estate insieme, perché abbiamo un progettino televisivo da realizzare. Sì, non vedo l'ora di assolutamente di capire come si fa, anch'io, sì, a dire il vero. Ma ne parleremo allora, se avremo la possibilità. Allora direi di tornare alle nostre ai nostri awards. Ai nostri awards, Soundchecker Play Music Awards. Quale categoria siamo arrivati? Siamo arrivati a una delle categorie più strane, ovvero alternative. Eh beh sì, questa è la più particolare. Ricordiamo le nomination, che sono Killiam Shakespeare, The Flow Down con World Speak, Bill Lawrence con After Sun. Bel disco, bel disco. Gli Snarky Puppy con Family Dinner volume 2. E loro sono come il peperoncino sul serio. Sì, loro sono ovunque, fanno 2-3 dischi l'anno. Si aggiudicano invece il Soundchecker Play Music Award 2015-2016 per Best Alternative Album i Go-Go Penguin con Man-Made Object. Soundcheck, il suono della musica. Beh, io lo devo dire, mio caro Francesco, per la categoria Best Alternative Album il mio voto l'ho dato proprio a Bill Lawrence, che qui abbiamo ascoltato dall'album After Sun, il terzo album a suo nome, e quindi non si sa dove riesce a trovare il tempo per lavorare sulla sua musica, visto che è sempre impegnato con Snarky Puppy. Il brano era Golden Hour. Questo è il soundcheck di Radio 24 con il Best Airplay, nel senso che oggi stiamo proprio aggiudicando i premi, il nostro ringraziamento personale agli artisti, gli album che più di altri si sono contraddistinti in questa edizione 2015-2016. Sì, purtroppo ci sono tantissimi album che in realtà non abbiamo inserito nelle nomination, perché sono usciti da poco, a maggio comunque. Sì, è vero, c'è stata una sfornata di album veramente belli. Sì, negli ultimi mesi veramente qualcosa di impressionante. Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla categoria Best International Jazz e non abbiamo avuto la possibilità di inserire nella categoria, proprio perché ha appena pubblicato l'album del sassofonista Marcus Strickland fatto per Revive Music e Blue Note. Oramai c'è questa collaborazione fra Revive Music e Blue Note, quindi un'etichetta indipendente che ha un sound accattivante, assolutamente contemporaneo, che collabora invece con la Blue Note, che è la celebre etichetta che ha creato il suono del jazz degli ultimi 40 anni, dal periodo hard bop in poi. Ebbene, il disco di Marcus Strickland intitolato Neil Novi A me è piaciuto tantissimo. Anche a me è piaciuto proprio parecchio. Bello, sì, lo trovo bello. Assolutamente interessante, ascoltatelo se ancora non l'avete fatto. Allora io approfitterei, prima di passare alla categoria Best Jazz, ascoltiamo un disco di jazz contemporaneo molto ben realizzato, con ottimi musicisti. C'è Chris Dave alla batteria, Pino Palladino al basso, la collaborazione di Michelle anche al basso, Robert Glasper fa la sua apparizione naturalmente, però è lui che ha scritto la musica, l'ha arrangiata, lo sentite qui in sottofondo con questo arrangiamento col quale introduce con il suo clarinetto basso un brano intitolato Alive, e la voce bellissima per Marcus Strickland Twilight è quella di Gene Bailey. Soundcheck, il suono della musica. E anche il contrabbassista Amin Salim è stato ospite quest'anno del Soundcheck di Radio 24. Amin Salim, album recente per lui intitolato The Groove Lab, che noi abbiamo presentato, qui rappresentato da Don't Walk Away, sua composizione scritta con Ramona Dunlop, che poi è la voce solista, una voce si sente che viene dal gospel. E anche Amin Salim si è ritrovato con The Groove Lab nella categoria Best International Jazz. Quali sono state le nomination, Francesco? Sì, allora, le nomination sono state Revive Music Presents Supreme Sonacy Volume 1. Bellissimo, disco molto complesso, molto ben realizzato. Poi John Scofield con Past Present. Con Joe Lovano, che album di jazz. Questo è un vero disco di jazz, ecco. E infatti è stato pubblicato per la Impulse, sì. Ricordiamolo. Liz Wright con Freedom and Surrender. Abbiamo detto Amin Salim con The Groove Lab, ma a vincere il Soundchecker Play Music Award 2015-2016 per la categoria Best International Album... Christian Scott a certo. Mani basse proprio. Con Stretch Music, grandissima produzione. Il sound di Stretch Music, quando si mette il CD proprio nel CD player, parte un suono quasi da Prince, ecco. Sì, lo riconosci subito. Proprio una masterizzazione altissima, quasi da disco rock. È identificabile facilmente. Ottimi musicisti, noi lo abbiamo visto dal vivo a Perugia diversi mesi fa, era inverno, faceva un freddo terribile, siamo stati proprio con Francesco Tromba e Silvia Barba a Perugia a vedere Stretch Music con Christian Scott, e siamo rimasti stupiti proprio dalla preparazione dei musicisti, sebbene giovanissimi. Sì, poi anche la cura nel suono durante il soundcheck, c'era lui stesso, lo stesso Christian Scott, che si spostava per tutta la sala per vedere proprio come si sentiva, come veniva fuori il suono durante le prove. Oltre al fatto che abbiamo fatto una bella mangiata insieme, abbiamo fatto amicizia e poi una bellissima intervista. Vincitore del Soundchecker Play per Best Jazz, Christian Scott, Stretch Music, il brano si intitola Of a New Cool. Soundcheck, il suono della musica. Cattivo Vasa. E siamo felici di annunciare che la vincitrice della categoria Jazz Italiano col miglior album è praticamente il debutto della bravissima vocalist Daniela Spalletta dalla Sicilia con furore con i suoi amici Urban Fabula. È proprio lei a vincere questa categoria, e non era facile perché ha praticamente combattuto con grandi maestri del jazz, Danilo Re, Enrico Pierannunzi e poi anche Domenico Sanna, Joseph Bassi. E anche Enrico Zanisi. Enrico Zanisi, quindi siamo contenti per Daniela, complimenti, congratulations Daniela, poi magari ci incontreremo durante l'estate perché sarai in giro sicuramente a fare concerti e meriti di fare una bellissima carriera. Sì, è molto bello questo pezzo, veramente uno dei pezzi più belli di quest'anno. Sì, noi abbiamo riproposto ancora una volta Zara perché la melodia è veramente bella, ma il disco è un disco di jazz contemporaneo, quindi vi consigliamo di acquistarlo, si intitola The Bird e scoprirete un grande talento italiano. Allora, siamo arrivati ai saluti, mio caro Francesco, poi quelli definitivi li facciamo domani, prima della pausa estiva con l'ultima puntata del Soundcheck della domenica, puntata che dedicheremo a Fans Low Ride, e poi ci saluteremo e direi di chiudere invece questo appuntamento con il nostro ricordo a uno dei campioni di musica ormai degli ultimi 40 anni, Prince, che ha lasciato questo mondo per andare sicuramente nel paradiso dei grandi artisti a fare musica con Miles Davis, con James Brown, Ray Charles e tutti gli altri. Sì, immaginati un concerto nel paradiso della musica. Beh, io non posso far altro che ricordare invece i suoi concerti e mi sono sempre divertito, sono sempre impazzito e ho sempre imparato tanto e continueremo a farlo ascoltando la sua musica e la sua energia, quindi chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck con Black Muse dall'ultimo album bellissimo del grande Prince. Ci sentiamo domani per i saluti definitivi per questa stagione, grazie a Francesco Tromba. Grazie a te, Gigi. Grazie a tutti voi, buona serata.